Capitolo 7. Amy nella valle dell'umiliazione. Quel ragazzo è un vero ciclope, non vi pare? Disse Amy un giorno che Lori passava a cavallo scalpitando e salutando col frustino. Ma li ha tutti e due gli occhi belli anche, esclamò Joe, che a toccarla il suo amico si risentiva subito. E chi ha detto niente degli occhi? E perché ti riscaldi tanto se dico che mi piace come monta a cavallo? Oh, signora, questa bestiolina voleva dire un centauro! Esclamò Joe scoppiando a ridere. È inutile prendermi in giro, non è stato che un piccolo lapislazzulo, come dice il signor Davis, ribatté Amy per schiacciare la sorella col suo latino. E poi, sottovoce, come parlando fra sé, ma sperando che udissero, continuava: mi basterebbe solo un po' del denaro che spende Lori per il cavallo. E perché? Le chiese Meg in tono molto cortese, perché Joe al nuovo sproposito di Amy si era messa di nuovo a ridere. Ne ho tanto bisogno, sono piena di debiti, e per un mese ancora il denaro degli stracci non tocca a me. Cosa vuoi dire? Chiese Meg, facendosi seria. Ecco, ho da pagare una dozzina di limoncelle in salamoia e non so come fare finché non ho il denaro. La mamma mi ha proibito di far mettere nulla in conto dal droghiere. Spiegami bene tutto. Sono di moda le limoncelle adesso? Ai miei tempi erano le cicche di gomma, disse Meg, cercando di star seria perché mi era serissima e piena di importanza. È così, vedi, tutte le comprano e se non si vuole passare per spilorce bisogna pure offrirle qualche volta. Adesso non si parla che di limoncelle. Durante le lezioni si succhiano nascondendosi dietro al banco e nel riposo fra le lezioni si barattano con matite, anelli di perline, bambole di carta e altre cose. Una ragazza che vuole bene a un'altra le offre una limoncella. Se invece non la posso offrire, gliela mangia sotto il naso e non le offre nemmeno di succhiarne un po'. Si offre per turno. Io ne ho avute tante senza mai offrirle e adesso dovrei ricambiare la cortesia. È solo un debito d'onore, capisco, ma è sempre un debito. E quando ci vorrebbe per pagarlo e ristabilire il tuo credito? Domandò Meg mettendo mano alla borsa. Un quarto di dollaro sarebbe più che sufficiente e ci avanzerebbe qualche soldo per offrirne a te. Non ti piacciono? Non tanto, te la puoi tenere, la mia parte. Eccoti il denaro, fallo durare più che puoi, perché sai, non ce n'è molto. Oh, grazie, che bella cosa avere denaro da spendere. Sarà un gran piacere per me, perché da una settimana non ne assaggiavo. Avevo ritegno ad accettarle, non potendo ricambiare. Anche in questo momento, pensandoci, mi viene l'acquolina alla bocca. Dico l'acquolina, letterariamente, assicurò Amy, che voleva dire letteralmente. Il giorno dopo arrivò a scuola un po' tardi, ma non poté resistere alla tentazione di mostrare, perdonabile orgoglio, un involto di carta umida che ripose nel recesso più profondo del suo tavolino. Pochi minuti dopo, nella sua combriccola, circolava già la voce che ella aveva 24 limoncelle magnifiche. Una l'aveva mangiata per la strada e che le avrebbe offerte. Tosto la coprirono di attenzioni. Kate Brown la invitò subito al suo primo ricevimento. Mary Kingsley volle assolutamente che Amy si tenesse in prestito il suo orologio fino all'ora del riposo. E Jenny Snow, una ragazza pungente che aveva ignobilmente deriso Amy perché non aveva limoncelle, con grande magnanimità la perdonò e le offerse il risultato di certe somme complicate. Ma Amy non se l'era scordate le allusioni di Miss Noah, certa gente che ha il naso corto ma annusa ugualmente le limoncelle degli altri. E alle persone orgogliose che però l'orgoglio lo mettono da parte quando si tratta di domandare una limoncella. E distrusse immediatamente le speranze di Miss Snow, con un segnale che, decifrato, voleva dire: è inutile che diventi gentile tutta in una volta, perché non ne avrai nemmeno una. Caso volle che quella mattina venisse a visitare la scuola un personaggio importante e le carte geografiche di Amy, disegnate molto bene, riscossero lode, la quale lode, tributata alla nemica, fu per Miss Snow tanto veleno, mentre Miss March si dava un'aria di giovane pavone diligente. Ma, ahimè, presso il Campidoglio c'è la rupe Tarpea e la vendicativa Snow poté invertire le parti con successo disastroso per Amy. Appena l'illustre visitatore, dopo le solite frasi rancide di complimento, con un inchino pieno di dignità se ne andò, Jenny Snow, con la scusa di fare una domanda importante al signor Davis, il maestro, andò a soffiargli che Amy March aveva nel tavolino le limoncelle in salamoia. Ora bisogna sapere che il signor Davis aveva dichiarato le limoncelle contrabbando di guerra, con solenne promessa di dare la bacchetta pubblicamente alla prima persona che fosse scoperta di infrangere l'ordinanza. A forza di costanza e pazienza, quel signore era riuscito a far sparire le cicche di gomma, e fu una guerra lunga e tempestosa quella. Aveva fatto un rogo di tutti i romanzi e i giornali sequestrati, aveva soppresso un ufficio postale clandestino, aveva proibito le smorfie, i soprannomi e le caricature. Aveva, insomma, fatto tutto ciò che può fare un uomo solo per tenere a freno un mezzo centinaio di ragazze turbolente. Ma che pazienza c'era voluta! Perché le ragazze sono molto peggio dei maschi, specialmente per una persona nervosa che abbia temperamento tirannico e attitudini di educatore modeste. Il signor Davis sapeva tanto di greco, di latino, di algebra, di teologia, di filologia, di tutte le logie immaginabili ed era quindi un insegnante apprezzato, ma la sua scuola, le belle maniere, la morale e i buoni sentimenti ed esempi non ricevevano speciale considerazione. Il momento era molto ben scelto per denunciare Amy e Jenny lo sapeva. Il signor Davis evidentemente quella mattina aveva preso il caffè troppo forte, spirava vento di levante, molto brutto per le sue nevralgie. Le discepole non gli avevano fatto fare tutta la bella figura che sentiva di meritare e perciò, per usare il loro linguaggio pittoresco ma inelegante, aveva la luna di traverso. La parola limoncelle fu come il fuoco in un barile di polvere. E il suo volto, solitamente giallo, divenne scarlatto e il suo pugno batté sulla cattedra con tale energia che Jenny tornò al suo tavolino di corsa. Signorine, attenzione, prego! A quest'ordine secco cessò il ronzio e 50 paia di occhi azzurri, neri, grigi e bruni si fissarono obbedienti sul volto accigliato del signor professore. Signorina March, venga alla cattedra! Amy si alzò docile, molto composta di fuori ma oppressa dentro da un segreto terrore perché le limoncelle le pesavano forte sulla coscienza, ma non aveva ancora fatto un passo quando udì l'ordine inatteso. Portatemi tutte le limoncelle che avete nel tavolino. Non le prendere tutte, le bisbigliò la vicina, giovane donna di gran presenza di spirito. In fretta Amy ne lasciò ricadere 5 o 6 e andò a deporre il resto davanti al signor Davis. Le pareva che una persona che avesse viscere umane avrebbe dovuto placarsi con quel profumo delizioso, ma sventuratamente quell'odore lo detestava il signor Davis e al suo furore si aggiunse il disgusto. Sono tutte? Proprio tutte? No, balbettò Amy. Portate le altre immediatamente! Con uno sguardo disperato alle amiche, ella obbedì. È sicuro che non ne avete più? Io non dico mai bugie, signore. Lo vedo bene. Adesso prendete queste porcherie, due alla volta, e gettatele fuori dalla finestra. Svanita l'ultima speranza, negato lo sperato ristoro alle aride labbra, una vera raffica si levò, fatto di 50 sospiri. Rossa di vergogna e di rabbia, Amy percorse 12 volte la via del supplizio e ad ogni paio di frutti sacrificati, così pieni, così belli, che cadeva dalle sue mani riluttanti dalla strada, si levava un grido che completava lo strazio delle ragazze, perché diceva loro che l'orgia ripromessa si se la godevano i monelli irlandesi, loro giurati nemici. Ah, era troppo! 50 sguardi indignati e supplichevoli convergevano sopra l'inesorabile Davis. Una non ne poté più e scoppiò in lacrime. Quando Amy ritornò alla cattedra dopo l'ultimo sacrificio, il signor Davis fece un gravido di oscure minacce e disse scandendo bene le parole: Signorine, vi ricorderete quello che ho detto una settimana fa. Mi dispiace che sia avvenuto questo fatto, ma non permetto mai che le mie regole siano violate e meno che mai posso mancare alla mia parola. Signorina March, stendete la mano. Amy sobbalzò, ma le mani se le mise dietro la schiena e gli diede uno sguardo supplichevole che era più forte di qualunque preghiera. Ella era tra le predilette del vecchio Davis, come lo chiamavano naturalmente, e in fondo io credo che egli alla sua parola ci avrebbe mancato se l'indignazione di una ragazza che non riuscì a tenersi non si fosse manifestata sotto forma di un sibilo sommesso. Il sibilo, per quanto si udisse appena, bastò ad irritare l'irascibile pedagogo e il fato della colpevole fu deciso irrevocabilmente. La mano, signorina March! Fu la sola risposta che ottenne la muta supplicazione di lei. troppo fiera per piangere e per raccomandarsi, Amy strinse i denti, levò il capo in atto di sfida e senza battere ciglio ricevé parecchi colpi sulla palma della manina. Non sentì che un leggero bruciore perché furono pochi e dati piano, ma per lei fu lo stesso. Era la prima volta in vita sua che la battevano. La vergogna ai suoi occhi erano meno atroce che se avesse avuto una battitura in piena regola. Adesso rimarrete sulla predella fino all'intervallo, disse il signor Davis risoluto, ormai che aveva cominciato ad andare fino in fondo. Era terribile. Sarebbe stato già brutto abbastanza tornare al proprio posto e rimanervi sotto gli sguardi pietosi delle amiche e compiaciuti delle poche nemiche, ma starsene lì, davanti a tutte, con quella vergogna recente. Per un momento le parve impossibile e temé di cascar giù col cuore infranto dal dolore. Ma un senso amaro di ribellione contro l'ingiustizia e il pensiero del piacere che ne avrebbe avuto Jenny Snow la sostennero. Si diresse al palco dell'infamia e con gli occhi fissi al fumaiolo della stufa, alto sopra quel mare di volti, tale le pareva, rimase là, pallida e immota. Nessuna riuscì più a studiare con quella tragica figura davanti. Nel quarto d'ora che seguì, l'orgogliosa e sensibile Amy patì una vergogna e un dolore che non dimenticò più. Per un'altra ragazza sarebbe stata una cosa da prendere in riso, ma per lei era una prova assai dura, giacché per 12 anni, da quando era nata, l'avevano sempre governata con l'amore, e un colpo come quello non l'aveva mai toccata. Il bruciore della mano e la pena del cuore scomparivano davanti a questo pensiero cocente. A casa lo dovrò dire. Come rimarranno male. I 15 minuti parvero un'ora, ma come Dio volle, passarono. Mai come quel giorno le fece piacere la parola Finis. Potete andare, signorina March, disse il signor Davis. Pareva si sentisse, si sentiva in realtà, a disagio anche lui. Non se lo scordò tanto presto lo sguardo di rimprovero che Amy gli gettò mentre usciva senza dire una parola a nessuno. Se ne andava dritta nell'anticamera e, staccate rabbiosamente le sue cose dall'attaccapanni, lasciava la scuola. Per sempre giurava a se stessa. Arrivò a casa in uno stato di afflizione indicibile. Al ritorno delle due sorelle maggiori divampò l'indignazione generale. La signora March non disse molte parole, ma aveva l'aria turbata e confortò la sua bambina con tutta la sua tenerezza. Anche i suoi adorati micetti sarebbero stati un conforto inadeguato a tanta pena. Joe, infiammata d'ira, propose di arrestare il signor Davis senza perdere un istante. Anna, infine, minacciava col pugno chiuso l'invisibile tiranno e pestava le patate lesse come se dentro il mortaio ci fosse quel boiaccia. A scuola, solo le amiche si accorsero che Amy se n'era andata, ma gli occhi indagatori di tutte le ragazze notarono che nel pomeriggio il signor Davis era buono buono e anche insolitamente nervoso. Poco prima della fine apparve Joe, con la faccia truce, si diresse verso la cattedra e consegnò una lettera di sua madre. Raccolse quindi le altre cose appartenenti ad Amy e se ne andò. Sullo zerbino, davanti alla porta, fregò con grande energia le scarpe quasi a scuotere dai piedi la polvere di quel luogo. Quella sera la signora March disse ad Amy: «A scuola non ci andrai più, ma tutti i giorni studierai un poco con Beth. Io non approvo le pene corporali, specialmente per le ragazze. Il modo di insegnare del signor Davis non mi piace e non credo che le compagne che tu frequenti ti facciano bene. Perciò, prima di mandarti altrove, sentirò il consiglio di tuo padre». Benissimo. Vorrei che se ne andassero anche tutte le altre, lui fosse obbligato a chiuderla la sua vecchia scuola. È una cosa da fare impazzire pensare a tutte quelle limoncelle, sospirò Amy con l'aria di una martire. Non mi dispiace affatto che tu le abbia perdute. Avevi mancato e la tua disobbedienza meritava una punizione. Questa risposta severa agghiacciò un poco la giovane vittima, perché ella non si aspettava altro che simpatia. Vorresti dire che sei contenta della figura che ho fatto davanti a tutta la scuola? Se fosse spettato a me, probabilmente non avrei ricorso a quel castigo, ma in fondo non sono sicura che non ti abbia fatto meglio che un trattamento meno duro. Tu stavi diventando un po' presuntuosa e piena di arie, bambina mia, ed era ora che cominciassi a correggerti. Hai tante piccole virtù e belle qualità, ma non c'è bisogno di gonfiarsi, perché la presunzione rende antipatico persino il genio. Il valore e la bontà, quando ci sono, non c'è pericolo che passino inosservati. E anche se questo accade, deve bastarci la coscienza di possederli e di farne buon uso. Ciò che rende simpatica la superiorità è la modestia. Sicuro, esclamò Lori dall'angolo dove giocava a scacchi con Joe. Una volta ho conosciuto una ragazza che aveva un vero talento per la musica e non lo sapeva. Non sapeva nemmeno quanto erano deliziose certe piccole cose che componeva quando era sola e se gliel'avessero detto non ci avrebbe creduto. L'avrei voluta conoscere quella cara ragazza. Forse mi avrebbe aiutato. Io sono così ottusa, disse Beth, che era vicina a lui e non perdeva una parola. La conosci? E l'aiuto te lo dà meglio di qualunque altra persona, rispose Lori, guardandola con tanta malizia negli occhi neri e sorridenti che Beth subito si fece tutta rossa e nascose la faccia nel cuscino del sofà, sopraffatta dalla scoperta inattesa. Joe gli lasciò vincere quella partita a Lori in premio dell'elogio fatto a Beth, la quale però non volle più suonare davanti a loro. Lori si fece in quattro quel giorno e cantò deliziosamente. Era di umore ottimo in casa Marce, raramente mostrava il lato oscuro del suo carattere. Quando egli se ne fu andato, Amy, che era rimasta a lungo pensosa, uscì fuori d'un tratto a dire, quasi lavorando intorno a un'idea nuova: «Ma che ragazzo compito, eh?» «Sì», rispose la madre, «ha avuto un'ottima educazione e ha molto talento. Riuscirà assai bene se non lo guastano i complimenti». Non è presuntuoso lui, è vero? Chiese Amy. Per niente, e per questo è tanto simpatico e gli vogliamo tanto bene tutte. Vedo, è bello avere delle attitudini ed essere eleganti, ma non farne mostra e non montare in superbia, disse Amy come tra sé. Certe doti, disse la signora March, la gente le vede sempre e se ne accorge, quando chi le possiede è modesto, non è necessario farne pompa. Come non sta bene mettersi in una volta tutti i cappelli, tutti i vestiti e tutti i nastri che abbiamo per far vedere alla gente che li abbiamo, aggiunse Joe, e la predica finì in una risata generale.